Allora, siamo qui presenti nella zona della nuova base navale, precisamente davanti ai cancelli. Chi passa con la macchina vede una serie di bandiere arcobaleno attaccate al muro invalicabile, zona militare di vieto di accesso, che delimita la nuova base navale di Chiapparo. Siamo riusciti quindi a piazzare le nostre bandiere arcobaleno su questo muro militare, non ci sono stati problemi, è stata un'iniziativa assolutamente riuscita e non violenta. È stato anche distribuito ai lavoratori della base navale un volantino in cui abbiamo specificato: noi non siamo qui contro di voi, siamo qui per ricordare che Taranto è e deve essere città operatrice di pace, come recita l'articolo 1 dello Statuto Comunale. E siamo qui per ricordare che l'Italia ripudia la guerra, articolo 11 della Costituzione italiana. Siamo qui per ricordare al governo che ogni ipotesi di trasferimento a Taranto del comando della Sesta Flotta USA ci trova fermamente contrari. E siamo inoltre qui a ricordare che Taranto non deve diventare una città della guerra infinita di Bush. Siamo qui a ricordare che l'eventuale arrivo a Taranto di navi sottomarine e a propulsione nucleare esporrebbe la nostra città a rischi gravissimi. Siamo inoltre qui a ricordare che questo enorme stanziamento per la costruzione della nuova base navale e anche per la costruzione della nuova portaerei comporta il taglio degli stipendi dell'arsenale e pertanto il futuro occupazionale della città di Taranto è diventato un'incognita per tanti lavoratori dell'arsenale. Noi siamo qui davanti alla stazione navale di Chiapparo in spirito di pace per essere dalla parte di tutti coloro che amano Taranto e hanno a cuore il futuro di questa città, e quindi siamo qui anche a esprimere le preoccupazioni di quanti lavoratori della base navale amano Taranto e non vogliono avere per il futuro di questa città un futuro di guerra. Sono Padre Paolo dei Missionari Comuniani della Comunità di Pari. Ecco, come già diceva Santo Maria Scotti, ci sembra importante essere qui a dare la nostra testimonianza di pace e a ricordare anche che è importante una forza non violenta, l'importanza della non violenza, l'importanza di maturare e vivere nuovi stili di vita per poter veramente vivere la pace con il locale e con il globale. Oggi il divario tra nord e sud è veramente triste e viviamo nel nostro sud Italia una dimensione di sud del mondo, e quindi siamo qui per ricordare che tutte queste spese per militare possono essere riconvertite per dare veramente vita e vita piena per tutti adesso e non domani. Salute, sono Giovanni Matichecchia di Taranto Sociale. Taranto Sociale è un raggruppamento di associazioni per la tutela dell'ambiente e la pace. Siamo qua perché Taranto è una città ampiamente militarizzata, è una città che viene stretta nel suo sviluppo sia a sud-est che a nord-ovest perché ci sono insediamenti militari sulla litoranea salentina e ci sono insediamenti militari anche sulla litoranea ionica, perché sta per nascere lì una nuova base militare americana. Quello che vorremmo noi è far capire alla gente che una base militare non comporta nessun incremento di sviluppo per il territorio, anzi, una base navale significa minacciare lo sviluppo di un territorio, perché non c'è più spazio per gli insediamenti industriali, non c'è più la possibilità di un attento uso delle risorse naturali, non c'è più la possibilità di quello sviluppo armonico che una comunità richiede.